del 1989, mese di settembre, esce questo. Bugie su Ustica, vergogna di Stato, sette colonne. Mamma mia, come dobbiamo esserci indignati, eh? Ecco, io vorrei che stasera, complice il freddo, non vi indignaste, non vi scaldaste troppo, sapete? Perché se, a noi italiani l'indignazione dura meno dell'orgasmo. E dopo viene sonno. Se invece l'indignazione non te la dà, forse ti dura il cervello acceso più a lungo, l'interesse più a lungo, perché mai le storie finiscono quando noi decidiamo che sono finite. Serve un residuo di energia in più, una resistenza che duri un po' di più. Ecco perché queste storie lunghe costano maledizione, perché di solito poi a seguirle restano in tre.